Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadone in regia, Flavio Suardi, ciao. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao amici sportivi, buon pomeriggio, good afternoon a tutti. E qui con noi un altro coach, ospite di nuovo ai nostri microfoni, Attilio Caia. Ciao Attilio. Ciao Carlo, buongiorno coach. Ciao, Caia, mi stai seguendo? L'ha visto Caia ieri sera a Pavia la Panathan, quindi... So tutto. Ormai siamo fissi noi due. Coppia fissa. Cerco di capire, imparare qualcosa, coach. Capisci già tanto, comunque, vai. 800240024, invitati naturalmente anche i nostri ascoltatori. Ho notizia di ieri sera, mentre i coach erano a cena insieme, si è definito il tabellone dell'Eurolega. Mi piacerebbe dare un'occhiata a questo tabellone insieme ai nostri coach. Panathinaikos Siena, questo si sapeva. Olympiacos Real, e questo è una parte del tabellone, dunque chi passa tra Pana e Siena, tutto sommato secondo me non cade male tra Olympiacos e Real. Dall'altra parte CSKA Partizan e Barcellona TAU, derby spagnolo. Coach, come li vedi questi accoppiamenti? Innanzitutto pronostico, coach. La Gazzetta mi ha già chiesto, quindi sono già crocifisso io dai miei amici della Gazzetta, ma no, non c'è problema per questo. Io ho detto che ho pronosticato Olympiacos, innanzitutto da parte loro. Ho fatto la sorpresa anche di Siena, perché sai, adesso che abbiamo 3 su 5, non più 2 su 3, io penso che Siena possa rubare una partita ad Atene. Questa è la mia idea. Ovviamente strafavorita il pronostico, CSKA passa rullo compressore contro il Partizan, non ci sono storie. E ho pronosticato anche TAU vittoria contro Barcellona. Sto andando leggermente per le sorprese. Attilio, che ne pensi? Ho detto d'accordo prima che sono qua per capire, sono assolutamente d'accordo, anche perché penso che Siena possa affrontare leggera questa serie, cioè è sfavorita. Tutti danno favorito il Panathinaikos, quindi non ha la pressione sulle spalle di dover assolutamente fare questo risultato, e questo, sai, può essere un fatto molto importante. Poi tra l'altro anche le due partite assolutamente in casa, c'è una grandissima pressione sul Panathinaikos. Sì. Siena ha recuperato una buona forza e ha le qualità per potersela vincere. Sì, sfavorita in questa serie, però è chiaro che l'obiettivo dichiarato di Siena, se guardiamo la politica societaria, vabbè, insomma... Carlo, però dal momento in cui poi trovi nel girone il CSKA Mosca, sai che sei stato sfortunato, puoi arrivare secondo e quindi non è più un problema. Sì, nel calcio la regina d'Inghilterra l'abbiamo scoperta in settimana. Mamma mia. Cosa dici, coach? Mamma mia. No. Io non so cosa, voi capite il calcio meglio di me, ma definisco le squadre inglesi di calcio squadre ciniche, proprio cioè, non ti regalano neanche su 90 minuti, non ti regalano neanche un minuto. Questa storia, se tu hai un minuto di lapsus, è grigio. Una volta eravamo noi così, adesso sono diventati. Adesso loro sono diventati. Hanno assunto questi geni. Nel basket invece ancora nel segno della Spagna, coach. Spagna, ne porta 3. Infatti, ieri parlando lì a Panathinaikos, mi hanno chiesto del fatto che le squadre italiane non vanno così forte come una volta, perché c'è la concorrenza molto di più. Cioè, una volta la Spagna c'era Real Madrid e un pochettino Barcellona, adesso Real fortissimo, Barcellona fortissimo, TAU fortissimo, Malaga ha fatto un Final Four, cioè vado avanti, ok? E la Russia aveva CSKA un po' Spartak, adesso c'è CSKA, c'è Kazan, ci sono 4-5 squadre. La Grecia ai miei tempi era in emergenza la Aris, però abbiamo eliminato noi Aris è stata 3 volte, anche 2 volte Final Four all'inizio degli anni, fine anni 80, inizio 90, eccetera. Però non c'erano Panathinaikos formidabile, Olympiacos formidabile e anche altre squadre. Poi la Turchia, chi avrebbe mai detto, Israele sempre Maccabi, ma anche Apoel Gerusa. C'è molto più concorrenza adesso, molto più sorprese. Poi la Serbia, la Croazia, ci sono sempre i Partizan, sempre Partizan. Quindi molto più concorrenza oggi. Senti coach, Attilio prima diceva che Siena potrebbe affrontare leggera questa partita contro il Panathinaikos. Potrebbe essere leggera anche dal punto di vista tecnico-tattico, visto l'assenza di Lavrinovic, provare a sorprendere il Panathinaikos con magari un quintetto piccolo, si è visto giocando contro i turchi con Sato da 4 e solo Stonruk sotto. Questa è la possibilità. Ovviamente, come sanno tutti gli allenatori, è la coperta corta, hai capito? Cioè, ti copre la testa ma i piedi prendono freddo, nel senso che hai più velocità, hai più tecnica, più trattamento di palla, più tiro, più gioco, più quello. Però alla fine della fiera qualcuno deve prendere un rimbalzo, quindi magari Pianigiani, che non dorme su queste cose, lui è molto tattico, magari fa una specie di zona pressing, qualcosa, per non permettere alla partita di essere giocata sotto canestro, dire no, mettiamo, giochiamo a metà campo, per dire, come si dice nel calcio, che pressing, e questa è una buona idea. Attilio, delusioni invece di queste top 16, Maccabi, perché quando Maccabi non arriva a certi livelli è sempre una delusione, ha speso anche quest'anno molti soldi, Arroyo eccetera, squadra non costruita bene secondo me, ma poi anche Roma. Partita male, Maccabi non è mai riuscita a cambiare l'inerzia. Così. Ma anche Roma però. Beh, Roma, considerato la partenza, sì, Roma ha fatto una partenza molto buona in Euroliga, è andata a vincere la vittoria, ha fatto un inizio molto positivo e poi c'era anche la premessa di migliorare, certo, il cammino dell'anno scorso, che voleva dire arrivare nelle top 8, e devo dire che è stata un po' sfortunata dal girone, perché si è trovata come terza il Panathinaikos, che era una terza un po' anomala, perché sì, il Panathinaikos è arrivata terza in un girone dove c'era Barcellona prima, Siena seconda, sì, e quindi insomma terza era un po' un'anomala. Esatto, e quindi hanno poi subito questa partita, il brutto esordio contro Malaga in casa, e la partita seconda a Partizan, dove hanno giocato punto a punto ma non si sono ritrovati, e quindi devo dire delusione, anche se io penso che alla luce dell'ultima partita contro Siena Roma abbia dimostrato di avere delle buone chance, di avere un buone possibilità di futuro. Sì, se trova continuità. È chiaro che ha vinto molte partite infine in campionato, però ogni tanto ha dei cali notevoli, coach. Che anche Roma, tutto un anno travagliato, licenziato Repesek, che è un signore allenatore, messo Gentile, ha già allenato a Imola, eccetera, però esordio in Serie A. Okay. E quindi diverse cose che vanno proprio insieme lì. E quando tu cambi allenatore durante l'anno, hanno avuto un risultato in campionato, proprio assolutamente non nella top 16 dell'Eurolega, ma come ha detto Attilio, le premesse per il futuro hanno in Eurolega, ovviamente loro diranno non positivo, ma io vedo il bicchiere sia per Milano che per Roma mezzo pieno, nel senso che sono arrivati nel top 16. C'era un momento per Milano, per esempio, che tutti dicevano non arriveranno mai alla top 16, sono arrivati ovviamente in maniera rocambolesca, partendo male, cioè, però l'hanno fatto, cioè, non voglio togliere niente da nessuno in queste case qua, quindi sia Milano che Roma, da qui in poi, infatti Milano da quando è eliminato ha vinto due in fila in campionato, hanno Avellino in casa, possono anche finire, sì, l'anno in una maniera positiva. Sorpresa Partizan, secondo me, sorpresa relativa, però via Pekovic, via Ketsman, eccetera, è ancora lì, la scuola slava sta tornando. Ma c'è Vujosevic lì, che è una vecchia volpe, che allena lì da 100 anni, sempre a Partizan, sempre appoggiato alla squadra, i giocatori sanno che lui ha l'appoggio incondizionato della società, cioè lì c'è Danilovic e compagnia che hanno giocato proprio Vujosevic, che lo amano, lo stimano, e i giocatori sanno, quindi lui è una botta di ferro e poi è un bravo allenatore, anche bravo a insegnare il fondamentale e lanciare i giovani in campo, quindi mezzo sorpreso, diciamo, cioè sulla carta no, hai ragione tu, non dovevo farlo, sì, però lì c'è sempre del talento e lavoro. E poi Cesca, che già lì ha fatto fatica a vincere nel corso di questa Eurolega, si trova Attilio davanti questi 20, sì, questo muro 22.000, beh insomma, giocare a pallacanestro davanti a 22.000 incredibile. Hanno anche giocatori però, Cesca, di una grande esperienza, che sono già abituati a partite di così importanza, di così grande pressione. Ma guarda, io preferisco giocare in un campo grande di 22.000 persone piuttosto che giocare a Pesaro nel Viale Partigiani, okay? Dove c'erano 4.000 stipate uno sopra l'altro e sembravano proprio essere tutti sul tuo collo, cioè, quindi, e anche i giocatori sono così perché ci sono più spazi, quindi no. Però l'altra cosa di Cesca, che dopo un inizio hanno avuto momenti non facili durante l'anno, che okay? Ettore ha perso dei grandi giocatori, Papa Lucas, Anderson, eccetera. Ma proprio adesso, e questo è il genio di Messina, proprio adesso stanno venendo in forma, 24 punti a Siena, eccetera, poi Siena stanca dopo la Coppa Italia, tutto quello che vuoi, ma 24 punti è un'indicazione, e loro stanno arrivando a questa fase nel momento, cioè giusto, con la forma giusta. E questa era la domanda che volevo fare a te, coach, e anche a coach Attilio Caio, cioè se quello del Cesca di quest'anno, adesso usando il peso giusto per questo termine, non fosse un vero e proprio miracolo arrivare lì in quelle condizioni, visto che è una squadra che l'abbiamo detto altre volte qui, è poco messiniana, no, nelle sue caratteristiche. Miracolo no, buon lavoro sì, okay, cioè, dove c'è Messina, dove c'è Cesca, dove ci sono giocatori, ma bastava avere la gente sana, anche, cioè Smodes che è stato accecato tutto l'anno, oh Smodes a posto, 24 a Siena, cioè voglio dire, gli allenatori siamo tutti noi spesso condizionati dai giocatori, che soprattutto nei tempi di oggi, ai miei tempi l'infortunio era una cosa, infortunato qualcuno, cioè adesso sono infortunati tutti, NBA, Italia, Lega, cioè, comunque non solo nella pallacanestro, coach, calcio, un'infermeria, cioè, che non finisce mai, perché secondo me il gioco è più atletico, più fisico e più violento. Attilio, sei d'accordo? Beh sì, sotto loro sono partiti con lo zoccolo duro di Smodis, di Siskaukas, di Zizis, di Langdon, e questi erano i giocatori base che hanno creato lo zoccolo e hanno permesso strada facendo agli altri di inserirsi. Morris era un giocatore all'inizio dell'anno assolutamente fuori controllo, assolutamente un giocatore fuori, però col lavoro di Messina e con l'esempio visivo di Smodis, di questi altri giocatori, sono cresciuti. Hanno fatto una rinuncia importante, Savrasenko, un giocatore che reclamava, che merita, che reclamava, che chiedeva spazio, però in funzione del gioco di squadra, in funzione del sistema di squadra, in funzione di Smodis leader, è stato srivicato e Messina ha avuto un'altra volta ragione. Quelli che reclamano con Ettore non cascano poi benissimo. Coach Peterson, tu vedi il bicchiere di Milano mezzo pieno, chiude con una sconfitta imbarazzante, meno 24 col Sopra, non contava nulla, eccetera. Però insomma, non una bella figura. Mettiamo le cose in chiaro qui. Perdere 24 punti in casa, cioè 96-72, l'ultimo contro Procom che era già eliminato fuori legge, cioè, non è bello, ok, però anche io ho letto la Gazzetta e ho detto, vacanza a tutti, non andava avanti nessuno, adesso hanno vinto due in fila in campionato e viene Avellino, possa farlo tre in fila, quindi rifiuto oggi di drammatizzare questo, è stata una brutta partita, una brutta prestazione, una brutta sconfitta, zero pubblico perché la squadra è eliminata, quando tu vai in campo, in casa, non c'è grande pubblico, dici, ehi, la partitella è uno scrimmage contro l'altra squadra, cioè, tutto cascata male, brutta partita, inutile negarlo, però archivi. Io ho detto sulla Gazzetta una settimana fa, Milano deve dimenticare, era già eliminato Milano, sì, dimenticare questo, e l'hanno dimenticato ovviamente ieri sera, dimenticare la Coppa e pensare solamente alla Serie A adesso, e penso che destino. Io li ho visti a Cantù, coach, li ho visti a Cantù, dove la differenza tra Milano e Cantù sono stati alla fine quattro canestri pazzi, Basile direbbe quattro tiri ignoranti di Mike Hall, canestri da tre punti. Mantengo l'idea secondo la quale Milano è una squadra media. Milano a Cantù ha giocato quasi sempre a zona, si è trovata dall'altra parte una squadra che ha un limite evidente, non ha un passatore che è uno. È chiaro che Cantù non ha attaccato bene la zona, lo dicono tutti i giornali, ogni addetto al lavoro con cui ha parlato lui, Cantù in bambola contro la zona, quindi questo è buona idea di Bucchi, tanto per dire, a metterlo, perché la sua idea è di vincere la partita, e vincere Cantù non è mai facile. Ricordiamo che prima della partita Cantù era due punti davanti a Milano in classifica, okay? Quindi Milano ha fatto una buona vittoria, un rivale concorrente importante per playoff, eccetera, però hai ragione, Milano adesso è una squadra di settimo posto, sesto posto, quella che è in classifica, primo turno, hanno svantaggio campo nei playoff, e quindi loro devono continuare a vincere e fare uno sforzo per salire sempre di più in classifica. Quarto posto sarebbe una vittoria sensazionale per Milano, se lo possono fare o meno non lo so. Vediamo se fanno meglio di quanto ha fatto Attilio Caia l'anno scorso, Attilio. Bah, si vedrà. Adesso mi sembra che da settimana prossima potrebbero avere anche l'inserimento di Mo Taylor come italiano. Sì. Insomma, qualcosa potrebbe. E potrebbe cambiare. Permettere anche al limite di lasciare fuori, cioè essere coperto sui lunghi e avere, come nella rotazione degli americani, avere fuori Papso e avere in campo Jobe Thomas. Sì. Ma il problema per è come per tutte le squadre, che hai detto tu prima, Carlo, che Cantù non ha un passatore. Se tu non hai oggi un vero playmaker, come mai Teramo? Teramo, ma dove? Ma Teramo è una città piccolissima, una società piccolissima, che non ha tanti soldi, è un budget piccolissimo, tutto piccolo, piccolo, piccolo. Hanno Porta. Poeta, vuol dire. Poeta, questo ragazzo che va in campo è un vero playmaker. E la squadra rende. La squadra è venuta a Milano a giocare una grande partita. Cioè, voglio dire, e se tu non hai questo, non hai gioco, non hai passaggio, e né Cantù né Milano ha questo giocatore. Cioè, continua questi, non solamente questi due, ma tutti dicono: arriva il nuovo playmaker americano. Sì. Americano sì, playmaker no. Playmaker no, ne ha presi 5 Milano. In stagione 5 non ne viene fuori uno. Il problema con questo qui, ma anche se vengono 10.000 persone lì e dicono il nuovo playmaker americano, se c'è uno fra 10.000 tifosi che capisce il basket, cioè, quello lì non è un playmaker, allora gli altri 9.999 lo sanno fra due secondi, okay? Ah, vero, non è un playmaker, quindi ed è una cosa difficile trovare oggi. E a Buchi manca questo qui, e a Dal Monte e a Cantù manca questo. Grazie coach, ci sentiamo ciao venerdì. Ragazzi, ciao Attilio, non seguimi più, ok? Va bene. Ciao ragazzi, ciao ciao. Grazie coach Peterson. Palla spicchi. Sempre con noi coach Attilio Caia e un ascoltatore ora in linea, Elias Udine, buongiorno. Buongiorno, salve da Udine. Salve. Volevo assolutamente dire che Dan Peterson ha grandissima ragione parlando soprattutto delle squadre elleniche. In particolare, secondo il mio modesto punto di vista, quest'anno in Eurolega la sorpresa arriverà da Pireo, dall'Olympiakos. In positivo o in negativo? Perché in positivo naturalmente. Sorpresa, guardi la squadra e guardi quanto costa l'Olympiakos. D'accordo, ma non è la questione che c'è un Childers oppure un Papaloukas, è questione che la squadra quest'anno gira moltissimo grazie a un grandissimo allenatore che si chiama Giannakis. Meno male che non l'ha sentito il coach, eh? Non è il suo allenatore preferito. No, ma sai Carlo, una cosa, secondo me Elias tradisce origini greche, non so se mi sbaglio, ma l'accento è abbastanza Sì, sono greco, trapiantato in Italia da molti anni, vi seguo sempre . E comunque sul basket così ho formato una mia opinione da parecchi anni. Sì. Sicuramente poi c'è una seconda candidatura del grandissimo Obradovic, che sicuramente anche lui non sta a guardare là sulla finestra. Ecco, quello lì parliamo del miglior allenatore d'Europa, già, insieme a Ettore Messina. E a Ettore Messina è già diversa. Sull'Olympiakos, grazie Elias. Sull'Olympiakos, Attilio, sorpresa sarebbe non dovesse arrivare alle Final Four. Secondo me. Sorpresa è stata la vittoria di ieri sera, con massima onestà. Non avrei scommesso una lira sulla vittoria di ieri sera sull'Olympiakos al Tau, visto come stava giocando il Tau, visto che era al primo posto il girone, visto che era una partita importante. Quindi già ieri sera ha fatto un'ottima partita, non avendola vista non so come è stata condotta. Certo è che se dovesse anche arrivare alle Final Four e fare una buona Final Four, sarebbe un po' da rivedere certi giudizi che fino adesso ci hanno portato. Non sono stati negativi per partito preso, ma quanto Olympiakos aveva fatto fino a questa partita qua. Tanto io ho anche un messaggio che vorrei leggere, che è questo: il mercato, visto che l'ascoltatore ha chiamato da Udine che si trova in una situazione molto difficile, e poi adesso parliamo della notizia della settimana, che secondo me è l'80-55 punteggio con il quale Rieti ha battuto la Virtus. Rieti, sapete, conoscete la situazione di Rieti, ha battuto la Virtus Bologna sabato scorso. Però l'ascoltatore su Udine scrive una cosa paradossale, ha ragione, il mercato sempre aperto ha portato l'ultimo in classifica costretta a fare turnover con gli americani, lasciandone ogni domenica uno fuori. No, più di uno fuori, perché uno in America è Jackson, sì, che è ancora sotto contratto, poi sono 5 americani, ce n'è uno fuori, poi sono 3 comunitari, ce n'è uno fuori, quindi sono 2 fuori ogni domenica. Insomma, ognuno valuta come crede. Io penso che una squadra che debba salvarsi, che debba avere una propria, diciamo, spirito, una propria identità e fare gruppo, quindi saper con chi devi giocare, possa essere fondamentale. Allen è arrivato, che è il playmaker nuovo titolare, ha giocato Allen una prima partita a Cantù e a Cantù c'era fuori Romero. Ha giocato la seconda partita a Roma e a Roma c'era fuori Forte. Ha giocato la terza partita in casa con la, e c'era fuori Anderson, il miglior campionato. Magari domenica fa la quarta e c'è fuori Torres. Cioè, uno deve capire, e ogni volta c'è una squadra diversa, poveri, fa fatica anche. A proposito di tu a Rosetta non facevi tanta fatica a scegliere quell'anno famoso, eh? No, è stato quelli erano e quelli, giocavano. Mi sembra di rivedere un po' la situazione adesso di Rieti, però ti posso dire una cosa, che secondo me è stata una mossa molto intelligente quella del presidente Papalia di giocare a carte scoperte. Cioè, è inutile stare a tergiversare, a fare delle promesse che poi non puoi mantenere. Quando è uscito a carte scoperte dicendo qui i soldi sono finiti, fate voi, io li ho tirati fuori a volontà quelli che potevo, adesso non posso più tirarli fuori, io ho finito, non me la sento più, ognuno faccia come si deve fare. Cioè, davanti a una onestà così, davanti a questa presa di posizione, cioè la squadra o prendono tutti vanno, oppure stanno lì e giustamente pensano di valorizzarsi al meglio per l'anno futuro. Sì. E questo era successo anche a noi a Roseto, la stessa situazione, tant'è che poi alla fine dell'anno a Roseto non si riuscì a iscriversi perché il comune, perché la politica lì fece delle cose veramente disdicevoli. Però noi con la società che era in grande difficoltà, che aveva onorato tutti gli impegni, però si sapeva che c'era grande difficoltà. Chi non se la sentiva di rimanere se ne andava, siamo rimasti con quattro italiani e un solo americano, abbiamo fatto una salvezza miracolosa. Eh sì. Perché ti compattano quelle situazioni, cioè sei tutti sulla stessa barca, sei tutti sulla stessa, diciamo, hai lo stesso obiettivo, e se su una barca uno non rema, e la barca sta in mezzo al mare. Invece se tutti stanno e tutti portano forza e tutti fanno il loro compito, la barca può arrivare in porto. Sì, ma dura allenare in quelle situazioni. Cioè, tu leggi comunque dura. Una settimana questi non si allenano, fanno sciopero, due spariscono, arriva la domenica da 25 alla Virtus. Vabbè, allora, sicuramente la Virtus non ha fatto la miglior partita. Ma anche perché la Virtus era anche loro reduce da, sai, tre partite per la Coppa Italia. Sì. Una squadra che non è così pronta, magari pronta nel senso abituata a avere una dispendio di energie nervose così importanti, ne risente. Ne ha risentito un po' anche Siena, Carlo, no? Di queste tre partite consecutive, sì, sì, di Coppa Italia. Ne ha risentito non tanto a Mosca quanto contro la Fortitudo, che poi dopo, ai posteriori, si è visto che è stato una partita non grande partita di Bologna, ma la Siena, che purtroppo era al top della forma. Quindi anche la Virtus Bologna ne ha risentito in quella ha perso poi dopo la Coppa Italia, ha perso in Germania. Sì. Quindi vuol dire che ne aveva risentito. E Rieti hanno fatto la loro parte, sono ricompattati e con modo molto intelligente sanno che loro, ogni partita da loro è un investimento per il loro futuro. Era successo a noi a Roseto, infatti poi da quell'anno là Cavaliero andò alla Fortitudo, sì, Malaventura andò a Napoli e tutti ebbero grandi possibilità. E quindi quando d'altronde, sai, un presidente si dichiara con onestà e così via, secondo me è una mossa molto intelligente che ha fatto sì evitare magari come in passato alcune situazioni dove c'è una specie di presa in giro, sì oggi ci sono, domani no, sì, oggi sì, sì, domani no. Arrivano martedì, esatto, mercoledì. Invece su dici, sono finiti. Grazie, finito. Basta. Cioè, e gli altri sono, li metti con le spalle al muro e dici ok, facciamo per il nostro futuro. Sull'argomento poi torniamo, però adesso c'è Giuseppe, provincia di Milano, ascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi abbassi la radio, sennò sentiamo ritorno in cuffie, ci viene mal di testa, grazie. Sì, scusi, allora, volevo fare una domanda. Allora, io volevo sapere se secondo lei Siena ha qualche chance per vincere l'Eurolega, perché comunque ho visto sì l'Olympiacos, CSKA, Tau, Barcellona, il Madrid, insomma un po' tutte, però non c'è una schiaccia sassi magari come poteva essere o l'anno scorso o due anni fa, un po' non so, perché Siena ha dei giocatori straordinari, però a volte come la partita di Bologna che ha appena menzionato erano un po' così. I motivi li ha spiegati ora Coach Attilio Caia sulle chance di Siena di vincere l'Eurolega. Secondo me sì, ne ha di vincere l'Eurolega. Ora deve passare da questo buco della serratura del Panathinaikos. Poi ripeto, Olympiacos e Real dovesse arrivare al Final Four, non sarebbero cattivi avversari, Attilio. Assolutamente d'accordo. E poi il momento difficile anche adesso che eventualmente non c'è neanche Lavrinovic. Nel caso in cui dovesse passare il turno e recuperare Lavrinovic, non dico che si va in discesa, ma quasi. palla spicchi. Ecco che torniamo, stavamo parlando di Rieti, della notizia della settimana, e allora parliamo con l'uomo della settimana del momento, Lino Lardo, coach di Rieti. Ciao Lino, grazie. Ciao, ciao a tutti. Com'è andata questa settimana? Questa settimana purtroppo in linea con le altre, nel senso che per raccontarti e senza fare vittimismo, ieri siamo allenati in sei, purtroppo giocando sempre con gli stessi, qualche piccolo infortunio a Ciacco c'è, ieri Green è fermo da tutta la settimana per un'infiammazione al piede, ieri sono fermati anche Thomas e Pasco, e perciò insomma ci inventiamo un po' di allenamenti, vorrà dire che lavoriamo più sui fondamentali, però è sempre difficile trovare poi le mosse per prepararmi nelle partite. Dall'altro punto societario chiaramente la situazione è sempre la stessa, perciò insomma un po' sempre in emergenza, con tanta voglia di stupire ancora. Sì, qui vicino a me c'è Cosa Sategli Ocai, stavamo ripercorrendo il quintetto della sua Rosetto che si è salvata in condizioni simili alle vostre. Sategli mi diceva che comunque in queste situazioni assurde, paradossali, la squadra riesce a trovare delle risorse impreviste e imprevedibili, Lino. Sì, ma sai, adesso intanto sai, non avendo quella pressione, che insomma quell'ansia che un po' attanaglia tutte le squadre, tutti i giocatori, di dover per forza fare e dimostrare, sicuramente ti liberi un attimino. Per questi giocatori qua miei, che alcuni non hanno molta esperienza, alcuni non una grande carriera alle spalle, sicuramente è un motivo di stringersi, di far gruppo, di dimostrare invece qualcosa, di fare qualcosa di importante. E in più sai, una situazione del genere, così pochi, tutti loro sanno, anche questo è un aspetto che magari potrebbe essere importante, sanno che hanno spazio, che possono giocare, perciò tra di loro c'è comunque una sintonia incredibile. Il problema è vedere quanto reggono e quanto sicuramente siamo bravi e veramente poi a preparare delle partite contro delle squadre che chiaramente in questo campionato sono molto competitive. Certo, Tegli, un po' quello che mi dicevi tu pochi istanti fa, microfoni spenti, riguardo a Roseto, no? Giocatori contati. Sì, beh, insomma, pochi piccoli e cattivi. Sì, perché poi dopo si ragionano con intelligenza sul loro futuro, è un investimento sul loro futuro, cercano di facendo bene, si mettono in mostra per il futuro, viceversa, non prendono una lira, se vanno a casa loro, oltre a non averne una minima speranza di avere qualcosa per il futuro, non hanno neanche la possibilità di mettersi in mostra. Loro, tra virgolette, usano quella società, usano questa situazione per far sì di farsi apprezzare, come diceva Lino, sono tanti nuovi giovani, di farsi conoscere, e già insomma Green è un playmaker che è già un playmaker chiacchierato sul prossimo mercato italiano, così pure come Slavskos, così pure come Pasco, e un'ennesima conferma anche del lavoro di Lino, e insomma io penso che alla fine quelle situazioni qua, siccome usano l'intelligenza, con l'intelligenza gli potrà portare dei vantaggi. Con un allenatore intelligente, Flavio. Sì, dicevo, volevo sottoporre a Lino quello che diceva Attilio prima, il fatto che comunque la società abbia in qualche modo giocato a carte scoperte, sicuramente ha in qualche modo creato una situazione molto chiara, Lino, cioè nel senso, voi sapevate benissimo com'era la situazione, a quel punto chi è rimasto e perché ha scelto di rimanere. Sì, è chiaro che è venuto fuori solamente negli ultimi tempi, però noi è dall'inizio dell'anno che chiaramente c'è questa un po' situazione di difficoltà. Negli ultimi tempi il presidente, cercando sempre di salvare tutto il possibile, ha dichiarato che non ce l'avrebbe più fatta. E tutti adesso, come diceva giustamente Attilio, tutti, e anche le motivazioni mie nei loro confronti, è proprio quella di cercare in una situazione veramente d'emergenza di tirare fuori il meglio, e che quello li ritornerà poi dopo nel futuro. È chiaro che a volte qualcuno capisce, alcune no. Per esempio questa settimana c'era stato promesso sicuramente una risposta che non è arrivata, e di nuovo c'è un po' di instabilità all'interno del gruppo, ma solamente per il fatto che non per i ritardi che ormai li abbiamo, ormai ci convivete, insomma. Sì, sì, era, è solamente per il fatto di capire se veramente è una stagione che tutti possono chiudere, ma tengo a sottolineare che loro veramente vorrebbero chiuderla, si sono anche affezionati a questa maglia tutti insieme, e perché no di stupire ancora. Questo ci tengo a sottolineare, sono dei ragazzi veramente straordinari, e ormai la matrice, a parte Gigena e pochi giovani, è straniera, e questo fa ancora di più riflettere. C'è un giocatore in comune con Roseto, Grillo, Diego Grillo era partecipe anche a Roseto. Era il cambio del mio playmaker, cambio di Leo Buschi, era Diego Grillo. Sì, ciao Attilio, intanto ciao Lino. Sì, Diego è un ragazzo di Rieti, ci teniamo a lui e Martellucci, un altro ragazzo, sono gli unici due di Rieti. E Diego, insomma, adesso anche con la partenza di Prado trova un po' di spazio, un ragazzo volenteroso che anche lui da questa situazione può trarre molto, ma sta dando anche molto alla squadra, perciò spero che non si trovi più in situazione del genere, ma per lui sicuramente è una cosa importante, lo stimolo a lavorare sempre senza farsi coinvolgere da questa situazione. Il mio ricordo va una partita a Rieti che lo fece marcare l'Ingrir per provare a farlo sfiancare un po', e lo fece benissimo, guarda, veramente ottimale. Certo, ah. Che ragazzi, qui siamo, allora Grillo è passato di qua e di là da Roseto, tu sei passato da Roseto, Lino già in passato ha vissuto queste situazioni particolari, Verona, Reggio Calabria, ricordiamo, facevamo prima la conta di giocatori che sono passati attraverso queste esperienze, adesso c'è Rieti, la Fortitudo, poi proviamo a capire cosa succede alla Fortitudo, insomma mi sembra un po' comunque una chiacchierata tra reduci, sarebbe anche ora di vedere un panorama migliore nella pallacanestro italiana, Lino? Questo è sicuro, è chiaro che se vogliamo una Lega, insomma, come vorremmo, all'altezza di magari, anche se adesso in Europa ci sono problemi un po' da tutte le parti, però è chiaro che non si dovrebbe arrivare a certe situazioni. Però io credo che dobbiamo anche stimolare noi stessi allenatori anche a prendere da queste situazioni, come io, adesso è un momento difficile dell'economia e tutti i lavoratori hanno grossissimi problemi, perciò anche da questo far capire ai ragazzi che siamo dei privilegiati, che comunque facciamo un lavoro bellissimo, che ci piace molto, e da queste situazioni sicuramente non deprimerci, non essere vittime, ma prendere le cose positive, che per i ragazzi miei in questo momento potrebbero essere proprio quello che abbiamo detto prima, certo. No? Certo. A raddoppiare le energie e dimostrare anche di fare delle buone cose in queste situazioni che li ritorneranno per il futuro, e anche per noi comunque ogni esperienza non può essere sempre positiva e perfetta. Io ho vissuto una situazione molto bella, anche se poi non finita non benissimo, a Milano, dove c'era una società invece che non aveva problemi di questo genere, altrettanti magari invece se ne possono trovare in altri posti, ma se qua ti piace il tuo lavoro e ami il tuo lavoro, bisogna sicuramente trasmettere questo a tutti, anche all'ambiente, perché così, sennò se le cose potessero andare sempre bene. Sì. Grazie Lino, buon lavoro. Grazie, buon lavoro, e anzi complimenti, perché io comunque sono uno che vi segue questa trasmissione, mi ha fatto piacere stare con voi. Perfetto, quando vuoi siamo qua Lino, è sempre un piacere anche per noi, davvero buon lavoro a Lino Lardo, abbiamo anche un ascoltatore in linea, tra poco ci parliamo, però Attilio, vale il discorso che facevo prima, insomma, panorama del basket italiano, negli ultimi anni ogni tanto vedi qualche ramo che cade, insomma sarebbe bello trovare guardare dall'alto e vedere un'Italia un po' meno in difficoltà. Beh, adesso in questo momento del basket, sì, poi anche il resto, però, in questo momento particolare, insomma, è chiaro che il basket è una componente che risente di altre difficoltà, però Carlo, io riesco sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche sia, tu, sì, come il coach, sì, come Peter. Sì, perché lo vedo sia dal punto di vista personale, professionale, come diceva Lino, veramente i problemi sono magari di altre situazioni, noi facciamo un lavoro che ci piace, riusciamo a ogni anno avere un'opportunità, riusciamo a stare in palestra con i gruppi, nelle situazioni come va male, io sono andato male, però c'è la società che dovrebbe mantenere fede ai propri impegni, quindi insomma siamo tutelati a quell'aspetto, mentre invece i problemi veri sono di altri. Per quanto riguarda la società, ci sono cicli e ricicli, cioè per esempio a Roseto era stato un problema perché magari di un contingente situazione, ma adesso c'è magari la possibilità anche che possa ritornare, così pure come Bologna aveva vissuto momenti non positivi prima, poi con Serragnoli c'era stato un grande boom e poi magari adesso sta ripassando qualche momento di difficoltà e poi ritornerà un grande boom. Io penso la stessa Milano magari aveva avuto momenti in cui era, se ricordiamo quella partita in cui si sbagliarono i tiri liberi per la salvezza, l'ha ricordata mordente in un'intervista questa settimana, ecco, dopodiché invece si è arrivati adesso a puntare magari a punti all'euro, quindi ci sono cicli e ricicli e quindi c'è magari una società che per qualche anno in difficoltà fa un passo indietro, ce n'è un'altra che poi ritorna avanti e alla fine insomma riesco sempre a vedere la pallacanestro come un momento positivo e sempre a vedere più il bicchiere pieno che non mezzo, anche più pieno che più di metà. Più di metà. Un po' più di metà. Sentiamo Paolo da Bologna che è in linea già da un po', poi ci fermiamo per il traffico. Paolo, buongiorno. Sì, buona giornata. Ma sentite, a proposito di Basket City, oggi mi sembrava fosse l'ultimo giorno per i tesseramenti. Sì, ore 11 di questa mattina. Noi avevamo così un americano, Scales. Sì, sì, è stato tesserato. Ah, è stato tesserato, notizie. Sì, buone notizie, c'è, c'è la comunicazione ufficiale anche sul sito internet della Lega Basket. Lui è Ivanov, che è un movimento che ha fatto invece la premiata Montegranaro. Però Paolo, io vorrei capirne di più della situazione della Fortitudo. Allora stia con noi, nel senso ci ascolti, perché subito dopo il traffico ci colleghiamo con una redazione bolognese dove c'è un mio amico che ci spiega tutto. Palla spicchi. Dunque, come promesso, adesso è il momento di parlare della Fortitudo, perché Rieti ne abbiamo parlato, Roseto abbiamo ripercorso quel miracolo con il coach di Roseto Attilio, che era di Roseto Attilio, che però adesso ci colleghiamo con un mio amico in una redazione bolognese che ci spiega tutto sulla Fortitudo. Angelo Costa, responsabile delle pagine del basket del Resto del Carlino. Ciao Angelo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Scale tesserato tutto a posto, o no? Scale tesserato. Dopo che sia il tutto a posto manca, insomma. Lo vediamo nelle prossime settimane. Ne abbiamo vissute fino dall'inizio della stagione, poi ne abbiamo già parlato anche su questa emittente del fatto che le acque in Fortitudo non sono state tranquille dall'inizio e il mare, anziché calmarsi, è andato ingrossandosi. Insomma, in settimana si è sentito anche cose anche magari non vere, di presunti ammutinamenti o minacce di ammutinamenti dei giocatori. Non è così. È successo questo episodio di Scale la settimana scorsa, oggi c'è stato il tesseramento. Questo significa che perlomeno per le norme minime, chiamiamole così, di Lega, la Fortitudo è a posto. Poi dopo, se c'è dell'altro, lo vedremo. Posso però fare un passo indietro, perché ho ascoltato il vostro discorso con Rieti, condivido tutto da quello che è stato detto e poi ho una grande stima nei confronti di Lardo, perché voi avete raccontato di Lardo come un personaggio che ha vissuto queste difficoltà a Verona e a Reggio Calabria ed è stato molto bravo anche in quelle situazioni. Lardo secondo me è un grande allenatore che ha fatto anche grandi cose poi a Milano e secondo me non sarà difficile vederlo l'anno prossimo qui a Bologna, magari sponda Virtus, forse anche in virtù di quel 25 che ha fatto la settimana scorsa. Io su quella vittoria della Virtus ho ragionato in maniera sulla Virtus, ho ragionato in maniera diversa. Sappiamo tutti che il titolo di Rieti è in vendita, quindi come tutti i prodotti, meglio teniamo il prodotto, meglio è. Secondo me Rieti sta giocando anche per questo, cioè Rieti sta giocando per quotare bene il suo prodotto, perché poi alla fine se arrivano più soldi ci guadagnano tutti. Sì. Che ne pensi, e non mi meraviglierei che ci fosse già qualcuno alla porta che magari abbia anche detto, beh, nel caso in cui ci fosse una Serie A facciamo anche prima, ecco. Quindi ai giocatori, ragazzi, se ci salviamo arrivano i soldi. Esatto, volevo proprio, ma anche un po' per togliere tutta questa poesia, che è giusto che ci sia perché è bello eccetera, però insomma in fin dei conti poi viviamo anche in un mondo di professionismo, anche se come hai detto te questo è un mondo dove negli ultimi anni, voglio ricordare che almeno una squadra negli anni 2000 è sparita dal campionato e i precedenti sono anche inquietanti, perché sì, avete parlato di Roseto, abbiamo parlato di Verona, c'è stata di mezzo anche la Virtus, Scavolini, l'elenco è lungo. Quest'anno ne sono sparite due, cioè i segnali ci sono da tempo. Molto probabilmente bisognerà anche che la pallacanestro, per non avere tutto questo tipo di problemi, cambi anche la mentalità, cioè che non si leghi più al diritto sportivo e basta, ma alla stabilità dei bilanci. Attilio, cosa ne pensi? Ma per il fatto lì di Rieti, o penso che sia un fatto che poi sia stato detto ai giocatori, oppure che loro riescano a farlo come un investimento di se stessi, cioè diventa indiretto: se noi facciamo bene e più vinciamo, più si parla di noi e più di conseguenza possiamo avere un mercato futuro, perché è chiaro che da oggi in poi più partite vinciamo e più siamo sui giornali, sulla bocca di tutti, e più abbiamo un futuro. Questo è sicuro, però io penso che un discorso diretto non so se è stato fatto. Per quanto riguarda questa l'altra situazione, stavo dicendo? No, la situazione che mi preme comunque chiarire è quella della Fortitudo, no? Perché che sia serato, che sia tutto a posto, lo vediamo, magari anche no, però c'è molta confusione intorno alla Fortitudo. Da una parte si parla di Parco delle Stelle, di un futuro ad altissimo livello, dall'altro lato c'è una squadra che è sull'orlo della, insomma, sulla linea rossa della zona retrocessione, e ci sono dei problemi attuali e reali. Quindi da una parte c'è la montagna, dall'altro l'abisso. Mi piacerebbe capire da che parte stiamo andando, Angelo Costa. Carlo, se ti ricordi, stiamo parlando già di un'altra Fortitudo, perché all'inizio dell'anno non solo c'era un altro allenatore, c'erano altri americani, c'erano altre situazioni, quindi anche questo è un segnale di instabilità che, come tu sai, è abbastanza indicativo di una certa situazione. Dove stiamo andando? Del Parco delle Stelle ne abbiamo già parlato. Sacrati, il patrono della Fortitudo, ha legato a questa sua iniziativa il suo ingresso nella pallacanestro. Continuiamo a vedere molte insegne, molti simboli. Abbiamo visto anche dei signori americani, non tutti, perché c'era stato promesso anche il finanziatore principale di questa iniziativa, cioè il signor Gimec, che a Bologna non si è mai visto. E ovviamente anche questa cosa è stata presa un po' così, sospetto, insomma, anche perché passano i giorni, però quella è una vicenda più politica, legata anche a nuove amministrazioni che dovranno essere elette alle future elezioni. Quello che mi preme invece è il linguaggio della squadra. Il linguaggio della squadra è abbastanza indicativo: hanno cambiato parecchio, ci sono stati appunto questi ritardi che non sono semplicemente dovuti a distrazioni, ma a situazioni che esistono. La situazione è obiettivamente difficile, potrebbe aggravarsi ulteriormente se dovesse mai essere rigiocata la partita con Montegranaro, perché c'è anche questo aspetto qui, e poi perché, ripeto, ci sono squadre, la stessa Rieti lo dimostra, che comunque non giocano solo per investire, come dice giustamente il coach, su loro stessi come immagine, ma anche proprio per una sostanza, cioè per una classifica che c'è. In tutto questo l'unica linea vera di continuità la vedo in questo momento in un allenatore che è Cesare Pancotto, che sta veramente dando l'anima per non guardare i problemi, ma per risolverli quotidianamente. Però bisogna poi vedere se basta, insomma, certo. Anche perché, appunto, come dicevo, i segnali di nervosismo, eccetera, ci sono. Grazie Angelo, buon lavoro. A voi tutti, buona giornata. A presto Angelo Costa, Resto del Carlino. Rimaniamo a Bologna per un ascoltatore che è Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo fare una domanda a Coach Caia. Volevo sapere un suo commento, se vede più Boykins come play o come guardia, e in secondo luogo se mi può commentare anche l'evoluzione del gioco di Boykins da quando è arrivato in Italia. Grazie. Ma a lei. Boykins lo vedo assolutamente come play, è un play che attacca molto il canestro, un play che sa essere pericoloso, un play che ho visto ultimamente sta giocando con le sue caratteristiche, cioè non quello che il play che arriva giù, chiama lo schema, fa una volta passaggio a destra, una volta passaggio a sinistra. È un play che attacca il canestro, è un play che riesce a essere pericoloso lui, è un play che fa giocare i compagni, che dà assist ai compagni, e questo penso che, come sta giocando lui, è un po' la vera differenza della Virtus, perché le ultime due partite la Virtus, pur dopo la Coppa Italia, pur non essendo brillante, ha vinto ad Avellino, dove Boykins ha fatto una partita strepitosa, ha perso di 25 a Rieti, dove Boykins ha fatto una partita non positiva. Ecco. Quindi questo è un po' anche il termometro della squadra. È cambiato secondo te da quando è arrivato in Italia come modo di giocare? All'inizio tendevo un po' più a eseguire, cioè un po' più a stare a disposizione dell'allenatore, a eseguire, ha cercato di adattarsi a magari a certe esigenze, e poi invece ultimamente sta andando un po' più a briglie sciolte, un po' più giocando secondo come sono le sue qualità, le sue caratteristiche che l'hanno fatto diventare un giocatore molto importante anche in NBA. Attilio, voglio chiederti un giudizio invece su queste partite di Bulleri a Treviso. Mi sembra che da un certo punto di vista sia tornato a essere un giocatore che lascia delle tracce. Tanto in campo. Per cominciare, un giocatore. Un giocatore. Guarda, questo è stato, io l'ho dichiarato l'anno scorso, è stato un mio grande rammarico. E non adesso perché è a Treviso, ma l'anno scorso io dichiarai, non so cosa avrei dato due mesi del mio stipendio, dei miei soldi, per sapere cosa poteva essere questa squadra con Bulleri. Quando noi prendemmo Melvin Booker e doveva essere Melvin Booker, Vucevic e Danilo, e Bulleri era il quarto giocatore, che poi non siamo riusciti a avere nessun giocatore in quel ruolo perché Di Bell è arrivato a marzo, mentre in quel momento lì non avevamo nessun altro giocatore, cioè c'era Tony Giovacchini che però non era dello stesso livello di Bulleri. Quindi giocare Bulleri con un playmaker come Booker di fianco, con una guardia come Vucevic, e secondo me, io sono convinto che Massimo avrebbe potuto fare benissimo, perché è un giocatore di grandissima qualità, è un giocatore che in allenamento dà il 100%. È difficile trovare, cioè vedere dal di fuori uno non si rende conto, perché uno pensa a giocatori che sono già arrivati a un certo livello, che in allenamento tendono a risparmiarsi, mentre lui era un giocatore assolutamente perfetto, un giocatore con certe caratteristiche, un giocatore con anche lì a livello caratteriale con tante cose positive, alcune da migliorare, ma del resto come tutti. E io quindi avevo grande fiducia in lui, e quindi non mi sorprende assolutamente il fatto che, tornando a Treviso, dove sentendo un ambiente particolare con fiducia, possa fare bene come sta facendo. Ti avrei ancora un sacco di cose da chiederti, questo vuol dire che dovrai tornare prima o poi. Beh, ma tanto siamo, è sempre un piacere, siamo vicini. Benissimo, allora abbiamo preso un altro appuntamento pubblico, adesso dobbiamo però chiudere il programma. Una decina di secondi soltanto per fare gli auguri di compleanno ad Aldo Ossola, che oggi compie 64 anni e gioca ancora, perché è stato tesserato il 9 di gennaio per una squadra di prima divisione di Varese, non ha mai smesso, e quindi insomma un come grande... Come si dice, la passione, Quindi... La passione si sente, esatto. Diciamo, passione radio si 24. Sente anche sui campi di basket. Grazie a Attilio Caia, grazie a voi. Flavio Suardi, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Col basket torniamo venerdì con lo sport domani pomeriggio alle 17. Un saluto a tutti.